Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Il crollo di una sequoia al centro di una foresta fa molto, molto più rumore di tanti piccoli alberelli che vengono spazzati via da un leggero temporale. Disastri ben diversi per dimensioni, ma del tutto simili per natura. Prima c'era del verde, poi più nulla. Quando colossi industriali, dunque, vacillano o addirittura crollano, impossibile non accorgersene. Pensiamo alla Safilo, leader del settore dell'occhialeria. Dopo la perdita di un'importante commessa, in queste settimane sta avviando le procedure per la mobilità di ben 1000 dipendenti, 100 di Padova, 350 degli stabilimenti di Santa Maria di Sala, 550 di quelli di Longarone, anche se i sindacati sperano con la concertazione di ridurre al minimo la perdita di posti di lavoro, di ridurre al minimo insomma gli esuberi. Ma se per la Safilo si profila una fortissima riduzione del personale, per la Filippi SRL di Arsego, azienda produttrice di forni elettrici, si parla addirittura di chiusura. E sono 234 questa volta i lavoratori a cui è arrivata a casa la lettera di messa in mobilità. Numeri altissimi. Il crollo di queste sequoie in un territorio come il Nord-Est, costellato di piccole, medie o piccolissime imprese familiari, danneggia anche chi sta loro vicino. La caduta di un tronco gigante, ormai morto, può infatti schiacciare i piccoli alberelli dell'indotto che vivevano sotto la sua chioma, i professionisti, gli artigiani, delle realtà limitrofe o vicine. Ma chi sono i boscaioli che tagliano questi alberi? E in base a che cosa prendono queste decisioni? Usano le loro motoseghe solo per tagliare gli alberi malati e magari per piantarne di sani al loro posto, o ben altre logiche guidano il loro lavoro? In questa puntata parleremo di manager, di chi queste decisioni le prende in concreto. Prima però leggiamo un brano tratto dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI, un'enciclica attuale che parla delle questioni della crisi finanziaria e che tratta anche dei manager. Dalla Caritas in Veritate di Benedetto XVI. La gestione dell'impresa non può tenere conto degli interessi dei soli proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie di soggetti che contribuiscono alla vita dell'impresa: i lavoratori, i clienti, i fornitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento. Negli ultimi anni si è notata la crescita di una classe cosmopolita di manager che spesso rispondono solo alle indicazioni degli azionisti di riferimento, costituiti in genere da fondi anonimi che stabiliscono di fatto i loro compensi. Anche oggi, tuttavia, vi sono molti manager che con analisi lungimirante si rendono sempre più conto dei profondi legami che la loro impresa ha con il territorio o con i territori in cui opera. Paolo VI invitava a valutare seriamente il danno che il trasferimento all'estero di capitali a esclusivo vantaggio personale può produrre alla propria nazione. Giovanni Paolo II avvertiva che investire ha sempre un significato morale, oltre che economico. Tutto questo, va ribadito, è valido anche oggi, nonostante che il mercato dei capitali sia stato fortemente liberalizzato e le moderne mentalità tecnologiche possano indurre a pensare che investire sia solo un fatto tecnico e non anche umano ed etico. Non c'è motivo per negare che un certo capitale possa fare del bene se investito all'estero piuttosto che in patria. Devono però essere fatti salvi i vincoli di giustizia, tenendo anche conto di come quel capitale si è formato e dei danni alle persone che comporterà il suo mancato impiego nei luoghi in cui esso è stato generato. Siamo in collegamento con Amedeo Levorato, un manager pubblico, presidente di APS Holding e dell'UCI, dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Grazie Levorato per il tempo che ci dedica. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Appare evidente come il discorso economico sia intrinsecamente legato all'etica. Il Papa, nella Caritas in Veritate, descrive la figura del manager che è chiamato ad operare delle scelte. Può scegliere di pensare solamente al profitto oppure di tenere conto di altri elementi come la salute dei lavoratori, il loro stesso impiego. Evidentemente le scelte di un manager, in quanto scelte libere, sono scelte in cui entra in gioco l'etica, ma Levorato, i manager sono liberi di scegliere secondo giustizia oppure anche loro sono preda di altri meccanismi? Vede, il problema è questo, il problema è che i manager generalmente raggiungono una posizione di responsabilità nell'ambito di una carriera e questa carriera è destinata principalmente al raggiungimento del profitto dell'azienda che governano e all'accumulazione del capitale, all'accumulazione del valore. A tratti è diverso, per esempio per le aziende pubbliche come quella che io presiedo, il problema primario è quello di offrire un servizio pubblico alle migliori condizioni. Lo Stato si accontenta che vengano pagati il capitale e vengano erogati i servizi. L'utile però è un segnale di buon funzionamento dell'azienda. Non si può dire in assoluto produrre profitti è un peccato. Produrre profitti è un segnale del buon andamento dell'azienda. È all'interno di questo, nel comportamento personale del manager e nel comportamento della classe dirigente più in generale, che si possono esprimere le condizioni di comportamento etico, di rifiuto dell'azzardo morale, di rifiuto dell'oppressione nei confronti dei dipendenti, ma anzi della creazione di un gruppo di collaborazione per una missione condivisa. Ecco, l'impresa però è un grande veicolo di libertà e la creazione di reddito è un grande veicolo di libertà. Il Papa dice all'interno della Caritas in Veritate che uno dei fenomeni più significativi degli ultimi 10 anni che ha accompagnato la globalizzazione è il fatto che un terzo della popolazione mondiale ha visto crescere il proprio reddito al di sopra dei 2-5 dollari al giorno. Stiamo parlando dell'India, della Cina, insomma dei paesi emergenti. Il vero problema che abbiamo noi in Italia è il punto d'osservazione. Noi siamo il paese, il vecchio mondo, c'è un nuovo mondo che emerge con il quale ci confrontiamo, non sempre i valori sono uguali, per cui si è portati a ritenere, soprattutto se si lavora nelle aziende italiane, che il manager persegua il profitto per suo scopo personale o per scopo personale della proprietà. Non è sempre vero. È vero qualche volta, ma non è sempre vero, c'è una competizione internazionale nei confronti della quale bisogna agire in qualche modo per poter restare a galla. Grazie Levorato, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento con Amedeo Levorato, manager pubblico, presidente di APS Holding e dell'UCID, e stiamo parlando di etica e manager, se i manager insomma possono operare nel loro lavoro con la morale o se sono limitati dalle regole economiche. Levorato, in queste settimane leggiamo informazioni su crisi aziendali anche grosse, parliamo per esempio della Safilo. Che interpretazione ne dà di questi crolli di colossi o forti limitazioni nell'agire? È esattamente quello che dicevo prima, siamo di fronte a una situazione nella quale c'è una competizione internazionale. Devo dire di più, nel caso della Safilo, come nel caso di altre aziende, si sovrappone il trasferimento del controllo che è avvenuto negli ultimi anni. La Safilo è diventata controllata di un'azienda olandese e quindi praticamente il graduale esterovestizione di queste aziende, per cui noi siamo un numero in un quadro generale di sedi mondiali. Se ci sono i profitti e se conviene produrre bene, se non conviene produrre e se non ci sono i profitti bisogna spostare. Nel caso specifico della Safilo, tra l'altro, la perdita del marchio Armani ha provocato questa situazione di crisi con una prospettiva di calo del fatturato. Ecco, volevo tornare sull'argomento di prima quando lei parlava dei manager. Non c'è dubbio, e questo è assodato a livello non solo europeo ma anche americano, che oggi c'è un grandissimo problema. Il problema è che i salari dei manager sono di molto superiori a quelli che si verificavano nella fase della crescita economica dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale aveva, e la crisi del 29 e la Seconda Guerra Mondiale avevano fatto da grande appianatore. La differenza di retribuzione e di reddito tra un manager e un operaio non era superiore alle 20, 30, 50 volte, oggi è addirittura 1000 volte superiore. Questo è un problema molto grave, sotto per certi aspetti è anche una minaccia per la democrazia, cioè l'eccesso di ricchezza concentrato in poche mani è una minaccia per la democrazia, e vorrei dire in un paese come l'Italia, dove la popolazione invecchia così rapidamente, c'è anche un problema generazionale, perché l'eccesso di denaro e l'eccesso di potere in mano alle persone più anziane crea una situazione di immobilismo che spinge i giovani addirittura a scappare, ad andare via. Ecco, quindi il tema dei manager e del dare l'esempio e del riformare la classe dirigente è un tema attualissimo, ed è un tema attualissimo anche quello della tassazione sui redditi più elevati. Tutti questi problemi quindi vanno anche a contribuire a questa grossa crisi e anche alla moria, alla grande moria di aziende in Italia e nel Veneto. Ci sono altri fattori, c'è un problema anche di classe imprenditoriale, lei parlava dell'età per esempio, c'è un problema di classe imprenditoriale, magari di una poca lungimiranza? Ripeto, noi abbiamo diversi gravi problemi, abbiamo una scarsissima importanza attribuita all'educazione, alla formazione e alle competenze negli ultimi 20 anni, pochi investimenti nella scuola, bassa qualità, mentre i paesi emergenti hanno investito moltissimo ed oggi, come le dico, il punto di vista è estremamente diverso. Guardiamo per esempio al Nord Africa, alla Tunisia, all'Algeria, quei paesi oggi hanno grandi opportunità tenendo conto di tutti i problemi che sono legati alle differenti religioni, al fondamentalismo, eccetera, eccetera. Però il dato di fatto è che il Nord Africa rappresenterebbe un'opportunità per l'Europa oggi, ma non lo rappresenta perché? Perché nella maggior parte dei casi le nostre aziende sono troppo piccole oppure troppo vecchie per andare a produrre, per cercare nuove opportunità in quei paesi. Noi dobbiamo fare un grosso sforzo di riorganizzazione al nostro interno, investendo, ripeto, in cultura, in formazione, coltivando l'attenzione, la legalità, perché anche questo è un aspetto deficitario oggi in Italia. Bisogna che la classe dirigente prenda coscienza del fatto che bisogna migliorare complessivamente sia il lavoro sia le prestazioni di lavoro qui in Italia per poter garantirci di essere in qualche maniera esempio per questi paesi emergenti con i quali possiamo fare grandi attività. Le prospettive, guardi, ci sono, secondo me ci sono, anche se dovremo scontare nei prossimi anni una graduale riduzione del benessere e della qualità di cui abbiamo goduto. Tra parentesi, qualità è qualità del consumo, qualità dello spreco. Domandiamoci se invece non valga la pena invece sacrificare qualche cosa per dare più spazio all'umanità, alla solidarietà e anche ad una visione diversa della vita, meno ricca di beni ma più ricca di impegno personale, professionale e di relazioni umane. L'Italia in questa crisi è anche... La situazione dell'Italia è aggravata dal fatto che attira pochi investimenti. Cosa può fare l'Italia per modificare questa situazione? In particolare i manager, che nella realtà hanno molto potere, possono utilizzare il loro potere per il bene comune, insomma, per contribuire a migliorare le aziende, magari attirando qualche investimento estero. Guardi, negli ultimi anni purtroppo abbiamo trascurato troppo gli investimenti produttivi, la razionalizzazione delle imprese e la capacità di produrre servizi e beni a livello internazionale. Per fare un esempio, noi oggi sopravviviamo grazie alla grande crescita del nostro export, ma il numero di aziende che esportano e la quantità delle esportazioni non è in grado di mantenere i 60 milioni di abitanti italiani e una spesa pubblica esorbitante. Gli Stati Uniti, per esempio, nel passato hanno sviluppato molto le attività finanziarie, e le attività finanziarie e anche quelle di servizio, come i servizi di ingegneria, di progettazione, eccetera, vengono vendute in tutto il mondo. è vero anche per noi per certi aspetti, ma è drammaticamente poco il volume e il numero delle imprese che operano all'estero. Bisogna concentrarci per integrare l'università, i centri di ricerca e le imprese, fare in modo che le imprese producano e esportino non solo prodotti ma anche idee. Occorre un grande coraggio e una voglia di guardare al futuro in ultima analisi, e questo coraggio, questa voglia di guardare al futuro non lo si acquisisce col consumismo, lo si acquisisce solo concentrandosi su una ragione di futuro, su una speranza, investendo sui giovani. Questa è l'assoluta necessità per il futuro. L'avvocato, un'ultima domanda. Quale sarebbe la ricetta che consiglierebbe all'Italia per trovare una via d'uscita da situazioni di questo genere, dato che in questo periodo comunque forse i manager pubblici, i manager privati hanno forse molto più potere anche dei politici, soprattutto dei parlamentari? Magari partendo dalle parole del Papa, cosa consiglierebbe? Guardi, oggi non c'è una strada diversa da quella suggerita dal governo Monti, a meno che nel breve periodo non si decida di rompere i vincoli e di creare nuova spesa pubblica e nuovo debito, il che sarebbe un dramma per l'Europa. Io personalmente, perché non posso risolvere i problemi del mondo, ritengo che la cosa più importante sia continuare ad investire nelle proprie aziende, investire per creare infrastrutture, per creare attività produttive, per formare giovani a lavorare con una qualità sempre superiore. Questa è la strada che bisogna percorrere, perché facendo così si crea reddito, si favorisce il risparmio e si garantisce l'occupazione. Per fare questo occorre andare all'estero, prendere l'aereo, andare in cerca di nuovi mercati. Sì, occorre, bisogna farlo. Grazie infinite, e speriamo che si possa insomma realizzare questa anche presa d'orgoglio da parte della classe dirigente italiana. Grazie della sua disponibilità e a risentirla presto, grazie. La ringrazio, buongiorno. Ringraziamo l'associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo dato alla realizzazione di questa trasmissione. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18:25, sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul nostro sito, e per contattarci mandateci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi è a martedì prossimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.